Una sola lacrima scende alla volta, ma fa male più di quanto pensi. Dentro i miei lamenti per te vorrei solo riuscire a ruggire ancora, ma non ce la faccio, eri mia, la mia signora, la mia adorata porta verso l'eterno, verso la terra, verso l'immenso. Eri tutto quello che avevo, adesso dentro porto un dolore immenso, il ruggito che ho dentro è perso. Una lacrima per una sola volta, ma strazia più dell'aldilà perduto, del cielo che ho avuto, delle immagini tolte, del cuore rapito, delle mani stravolte, delle gambe strafatte, per questo rovinate d'arte. Sembrano i miei quadri che hai tu in testa adesso. Non so chi sei, ma almeno portali con rispetto. È quello che ti ho dato, non l'ho mica dato per niente. L'ho dato per avere un popolo a cui dar qualcosa, una mia parte. Una parte di me in tutti voi dovrebbe fare la disparità di questa società e omologa solo al peggio. Dovrebbe avere un po' di poesia per tutti, è un arpeggio nell'anima, e non essere chiamati solo farabutti per qualche scelta sbagliata, che la vostra denunciata vada persa perché non è vera. Eppure io non la so ancora con precisione, ma stavolta il mio copione d'attore in questa vita di merda sarà diverso. Io non sono un menzognero, rifletto solo il vero che porto di questa società, e metà è menzogna vera. E per questo la sera sono da solo ancora con la mia poesia tutta dentro, con la musica a influenzare come una chimera.